24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi i risultati del vertice Ecofin con il premier italiano Mario Monti che sprona a inserire nell'agenda comunitaria crescita e occupazione. Si va verso un'intesa sul trattato salva euro mentre aumenta la pressione comunitaria sulla Grecia. Oggi vi porteremo anche nella Guyana francese per parlarvi di un lancio spaziale made in the EU e vi porteremo anche un po' di Beatles. Al vertice di Bruxelles i paesi raggiungono dunque nella serata di lunedì un'intesa sul testo del nuovo trattato che istituisce il fondo ESM, fondato su alcuni punti chiave quali la maggioranza qualificata per le decisioni all'85%, la partenza a luglio e la coabitazione fino al 2013 con l'IFSF. Il premier italiano Mario Monti spinge per mettere in agenda i temi della crescita e dell'occupazione. Sentiamo un passaggio della conferenza stampa di Monti. Crescita e occupazione stanno diventando un tema e vorremmo che diventassero sempre di più un tema anziché due corni di un dilemma, sempre più al centro del dibattito europeo. La Commissione europea e la Banca Centrale europea insistono per un controllo preventivo ad autunno, entro il 15 ottobre, dei bilanci pubblici con la trasmissione dei dati alle autorità comunitarie in modo da identificare con rapidità eventuali situazioni di rischio. La Germania non ha ancora preso alcuna decisione su un cumulo dei fondi europei di salvataggio, l'IFSF e l'ISM, che porterebbe a 750 miliardi di euro le risorse a disposizione dell'Europa per contrastare la crisi. Non è stata presa alcuna decisione per portare l'ISM a 750 miliardi, ha affermato il portavoce della cancelliera tedesca Steffen Seibert, commentando la notizia apparsa ieri sul Financial Times. L'Unione Europea vuole vedere l'accordo tra il governo greco e i suoi creditori privati, preferibilmente entro gennaio e non a febbraio, così il commissario agli affari economici Rehn al termine dell'Ecofin. La Grecia si è data il 13 febbraio come data limite per raggiungere l'intesa con i creditori sulla ristrutturazione del debito. Farmacie chiuse ieri pomeriggio ad Atene in segno di protesta contro la decisione del governo di liberalizzare anche il loro settore. L'agitazione è stata indetta dalla società farmaceutica panellenica che rappresenta i farmacisti e coinciderà con l'inizio della discussione in Parlamento degli emendamenti alla deregulation degli orari di lavoro delle farmacie. Via libera intanto la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Ungheria che può ora, a causa delle sanzioni, perdere i suoi fondi europei di coesione. E quanto hanno deciso ieri a Bruxelles i ministri dell'economia europei. Un vertice europeo al mese resta l'obiettivo del presidente europeo Van Rompuy, che non ha escluso la possibilità di un summit comunitario anche ad aprile, dopo quelli già in agenda il 30 gennaio e il 1 marzo. Forse, ha detto Van Rompuy, aggiungendo però che la ricerca di una data in aprile è complicata dallo svolgimento delle elezioni francesi. L'ipotesi di un vertice europeo ad aprile era stata sollevata dalla cancelliera tedesca Merkel. Nel 2011 i summit europei sono stati 8. Ora parliamo di mercati con Piazza Affari che recupera sul finale. Negative invece le altre borse europee, considerata l'assenza di un accordo sulla ristrutturazione del debito ellenico. Il FTSE MIB ha chiuso a più 0,14%. Il listino milanese ha registrato l'unica performance positiva in Europa recuperando terreno sul finale dopo una giornata all'insegna delle vendite. Negative le altre borse europee per il mancato raggiungimento di un accordo sulla ristrutturazione del debito greco. Sul FTSE MIB più 0,14%, la migliore è stata Snam più 4%, premiata, dopo i cali dei giorni scorsi, dal potenziale interesse a partecipare alla gara per la rete gas della tedesca E.ON. In rialzo anche Impregilo più 1,7%. Sulle voci relative al possibile lancio di un'offerta pubblica d'acquisto da parte dell'azionista Salini Costruttori. Quest'ultimo ha però precisato a mercati chiusi di non avere ancora preso una decisione in merito a possibili operazioni sulla quotata. Tra i titoli negativi ST è scivolata di oltre il 5% dopo i conti che hanno evidenziato una perdita di 11 milioni di dollari nel quarto trimestre. Male anche Telecom Italia, meno 3,5% sulle indiscrezioni relative a un possibile taglio del dividendo. Livia Zancanero da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. L'indagine sul disastro della nave Costa Concordia è svolta in maniera molto professionale e con grande impegno da parte delle autorità italiane. Questo ci rende lieti, siamo in costante contatto con loro, lo ha affermato il commissario europeo ai trasporti Siim Kallas parlando all'Europarlamento. La disoccupazione in Europa ha raggiunto un nuovo massimo storico. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel 2011 circa 45 milioni di persone nell'Unione erano disoccupate. E la colpa, almeno in parte, è della compressione dei salari in Germania, che per l'ILO frenerebbe l'economia dei vicini. vicini. Novità importanti sul fronte degli OGM in Europa. La presidenza danese dell'Unione rilancerà a marzo il dibattito tra i 27 Stati membri sulla proposta della Commissione, che offre una maggiore flessibilità ai paesi che vogliono limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio. E ora un annuncio che ci porta fino alla lontana base spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese. Ci colleghiamo con Gigi Donelli, inviato in Guyana. Il 9 febbraio sarà dunque il D-Day per il lanciatore europeo Vega. Vega è un cosiddetto piccolo lanciatore, stiamo parlando di un razzo di 30 metri che ha lo scopo di portare in orbita satelliti di piccole dimensioni, ancora una volta i termini sono sempre relativi, parliamo di oggetti fino a 1500 chili di peso. Vega, che è un progetto appunto dell'Agenzia Spaziale Europea con una fortissima partecipazione italiana, Italia che peraltro ha finanziato in larga parte la costruzione, la progettazione industriale e che coinvolge dunque intorno al progetto numerose aziende, a cominciare da una parte dell'agenzia, dall'ASI, ma dall'AVI e dal gruppo ELV, insomma molta Italia industriale, dicevo, tutto questo completerà il sistema di lanciatori, la famiglia dei lanciatori europei attualmente composto dal grande Ariane 5, il più grande dei lanciatori, e dalla Soyuz russa che l'anno scorso è di fatto stata integrata nella flotta europea. Insomma, un lavoro di oltre 10 anni di preparazione. Il 9 febbraio è dunque la data fissata per il lancio. Un lancio che ha una grande attesa, un lancio che dovrebbe permettere all'Europa, con una, dicevo, una grande partecipazione tecnologica italiana, di entrare in un mercato da cui negli anni a venire ci si aspetta molto. Per ora da Cayenne è tutto, la linea allo studio. Nuovo campanello d'allarme per il settore turistico italiano. Nel 2011 il nostro è stato l'unico paese in Europa a registrare una flessione dei pernottamenti negli alberghi. Il calo è stato dell'1,2% rispetto all'anno precedente. E chiudiamo con gli spettacoli. Per la prima volta a Napoli e a Bari, Pete Best, primo leggendario batterista dei Beatles, incontrerà il pubblico e la stampa per aprire le celebrazioni del 50° anniversario di Love Me Do, primo singolo dei Beatles. La Due Giorni è organizzata con il supporto dei beatlesiani d'Italia Associati, l'associazione presieduta da Rolando Giambelli che da ben 20 anni promuove in Italia la musica dei Beatles. E domani Pete Best riceverà il premio Rock Legend 2012, sentiamolo al microfono di Adriana Fracchia. Pete Best, come ci si sente ad aver fatto parte di una band leggendaria come i Beatles? Oh, very proud. You know, no one knew 50 years ago that, you know. Ma nessuno 50 anni fa avrebbe immaginato che oggi si sarebbe celebrato ancora il compleanno dei Beatles. Perciò sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa band e di aver registrato con loro Love Me Do. Da qui è iniziato tutto. Sì, sono molto orgoglioso. Tutto cominciò nella tua cantina. Sì, alla Casbah. Non sapevamo che stavamo per diventare delle icone della musica a livello mondiale. Si suonava col cuore, con molta emozione, anche quando andammo in Germania, ad Amburgo. Tu hai detto che l'unico che può spiegare perché si concluse la tua collaborazione con loro è Paul McCartney. A 50 anni dalla mia sostituzione non sono ancora chiare le ragioni del perché. Perciò è soltanto Paul, come membro originale della band, e dato che gli altri, eccetto Ringo, sfortunatamente sono morti, è solo lui a conoscere le vere motivazioni del mio licenziamento. Per questo, ripeto, io non lo so. E l'unica persona che può saperlo è Paul McCartney. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.